bianco, un campo a magese e la penna come l'aratro. Ecco i miei alibi di sfaccendato, affaccendato a rovistare. Nel mio ciarpame, nella mia testa, nell'illusione, seppur banale, che fare versi può essere un modo come un altro di sbarcare. Meglio inquadrarsi finché ne ho il tempo, meglio un mestiere che mi dia il senso, che adoperarsi senza ragione in questa cosa non proprio onesta, che fare il furbo con le parole, trovar la rima ad ogni inerzia. E quando il genio si fa pregare, prender licenza e continuare, continuare per questa guisa, che chi lo sa dove mi porta. Fare canzoni è ciò che mi piace, di tutto il resto che me ne importa. Mi piace il gusto del vino la sera, mi piace starmene senza far niente, sull'incalzante ritmo del tempo, suonare il motivo che ho nella mente. Se questo sia proprio arte o il vizio strambo di un annoiato, se spreco il mio tempo dietro ad un niente, o il mondo è pazzo e io sono savio. Canto l'autunno con le sue foglie, l'estate dolce delle mie voglie, frugando spesso ai nostri guai per farmi un nome fra i parolai. E tu, compagna di questa vita, che ora mi ascolti pazientemente, del mio ciarlare tu rideresti se non mi amassi incoscientemente. Se non mi amassi farei lo stesso, farei ghirlande delle mie frasi, cantando il dubbio umano eterno su cosa è amare ed essere amati. Comunque vado per la mia strada, e chi lo sa dove mi porta. Fare canzoni è ciò che mi piace, di tutto il resto che me ne importa. Mi piace andarmene senza una meta, correre dietro alle mie chimere. Poi senza sogni io duro poco, meglio in mutande che senza il mio gioco. Mi piace il gusto del vino la sera, mi piace starmene senza far niente, sull'incalzante ritmo dei giorni, suonare il motivo che ho nella mente.